c'è stata questa grossa scossa, noi ci siamo tutti un attimo guardate, oddio, insomma, qualcuno ha iniziato a piangere, qualcuno mi si è attaccata proprio a salire come per non voler toccare con i piedini per terra. Fuori c'era un parco, li ho portati tutti fuori nel parco e ho detto togliamoci tutte le scarpe. Loro mi hanno guardato come per dire cosa, perché ho detto togliamoci tutte le scarpe, dai che facciamo una bella corsa, facciamo un gioco coi piedi nudi nell'erba. Io l'ho fatto così di istinto perché volevo tirarli fuori un attimo dal rimbombo di quella situazione, nonostante fosse luna, c'era un sole fuori che non era proprio l'orario, però ho detto 10 minuti scarichiamoli fuori nell'erba. Venne una ragazza volontaria, una dottoressa che già collaborava con Amnesty International nei progetti sull'infanzia, venne a fare visita come stavamo cercando di organizzarci con i bambini, lei mi ha detto hai fatto la cosa migliore che potessi fare, ridare il contatto tramite i piedi dei bambini nel terreno. Perché tutte le volte che senti parlare o rinnovi sta roba è un altro film rispetto a prima. Io mi sono sentito molto cambiato da prima a dopo. Per me, dentro di me, è come se si fosse infranto una protezione. Io adesso ogni volta che sento una canzone che mi piace molto mi commuovo. Prima no, non so perché. Di bello arrivavano magari i nonni a prendere i bambini a un certo orario, così avete sentito oggi quella scossa? Ho detto signora guardi, noi qui non sentiamo niente, se lei ogni tanto è stanca di sentire le scosse venga qui, ci dà una mano, lei rimanga qua, guardi i bambini giocare, lei le garantisco che qui si dimentica il terremoto.